È bene ricordare forse che dal giorno della loro fondazione gli Stati Uniti si sono sempre serviti della carcerazione come sistema di controllo sociale. È un sistema comune a tutti gli Stati, al quale però ogni Stato assegna delle specificità ed è proprio questo che abbiamo analizzato. In questo articolo viene preso in esame cosa accade nelle carceri del Delaware. E qui, al contrario degli altri stati, le guardie carcerarie ammettono candidamente che è stato per loro un ripiego scegliere di entrare a far parte dell'amministrazione carceraria. Fanno il loro lavoro, ma generalmente si disinteressano dei meccanismi che regolano quello che è un vero e proprio sfruttamento del lavoro dei reclusi. Il Delaware non è un grande stato e le autorità hanno comunque avuto l'accortezza di costruire i penitenziari lontani uno dall'altro in modo che ognuno poi costituisca un piccolo mondo a sé stante. Ma il mantenimento dei penitenziari costa tuttavia allo Stato del Delaware 14-15 milioni di dollari l'anno e il lavoro dei reclusi serve praticamente a restituire allo Stato i costi di questa gestione. Come avviene in tutte le carceri d'America, gli afroamericani hanno spesso dovuto difendersi contro l'imperante razzismo e i secondini che dovrebbero mantenere l'ordine sono essi stessi vittime di una mentalità razzista che è dura a morire. In Delaware è lo Stato che addestra il personale, al contrario di quanto accade negli altri Stati, e dunque essi si considerano i secondini elementi scelti rispetto ai colleghi che lavorano altrove e che pretendono di imporre poi metodi di controllo per così dire personalizzati. Hanno in dotazione le manette, le classiche bombole di gas urticante, Israeli Fogger, un gas letale, ne fanno un uso smodato e questo crea lesioni anche permanenti nei reclusi. Un'altra caratteristica di questo piccolo Stato, che si trova nella parte alta atlantica del paese, è quella di ostinarsi ad alloggiare i minorenni nelle stesse strutture dove vengono imprigionati gli adulti, perché, dicono le autorità, mancano i fondi per fare altrimenti. In Delaware, come in altri 37 stati americani, esiste tuttora la pena capitale, è stato vano, salvo un breve periodo tra il 58 e il 61, ogni tentativo di abolirla è andato sinora a vuoto. L'iniezione letale è stata ammessa solo a partire dal 1992. Quando è stato giustiziato il primo condannato a morte dell'era letale, Steve Pennell, è stato necessario costruire un'apposita sala costata $15,000. In seguito, per non andare in rovina, le autorità hanno deciso di eliminare tutte le altre spese collaterali all'esecuzione, come ad esempio gli straordinari alle guardie addette al rituale dell'esecuzione, facendo poi rientrare il processo nelle normali pratiche lavorative diurne. È stato fissato un tetto di $16,000 per portare a termine ogni esecuzione, e un risparmio notevole se si considera che la prima esecuzione era costata $25,000 di straordinario pagati al personale appunto per l'esecuzione di Pennell. Alle autorità non è comunque venuto in mente di aprire un dibattito su quanto sia giusto togliere la vita ad un essere umano. L'ordine è unicamente che non si superi il tetto dei $16,000 che devono comunque bastare. Vi saluto, Bianca Cerri per Reporter Associati e Amisnet.